sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Operazione contro l'Andrangheta, decine di arresti, trattativa Stato Mafia verso la richiesta di revisione dell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, Mancino dall'inchiesta sulla P3, un cono d'ombra sulla magistratura, missioni internazionali, governo battuto due volte alla Camera. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Per questa edizione del nostro radiogiornale in corso una nuova maxi operazione contro l'Andrangheta, i particolari in questo servizio. Ci sono anche i fratelli, due imprenditori, del sindaco di Corigliano Calabro, Pasqualina Straface, eletta nelle liste del PDL, tra le persone arrestate stamani nell'operazione condotta in provincia di Cosenza da Guardia di Finanza e Carabinieri, che ha portato a una settantina di arresti. I due imprenditori, secondo alcuni pentiti, sarebbero legati alla cosca di Corigliano e sono accusati di un'estorsione compiuta nell'ambito della realizzazione di un villaggio turistico nella zona. In particolare, sempre secondo l'accusa, il titolare della società che stava realizzando la struttura sarebbe stato costretto dal capo della cosca di Corigliano ad affidare un appalto milionario alla Straface SRL. I due imprenditori hanno poi scelto le imprese subappaltatrici che hanno fatturato alla stessa ditta Straface importi non dovuti. L'operazione è stata denominata Santa Tecla ed è stata condotta dai finanzieri di Catanzaro, di Roma e dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Tutti gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, usura, traffico di sostanze stupefacenti. Filippo Veltri, GR24, Sole 24 ore, Cosenza. Mafia e stragi nel 92, una richiesta di revisione dei processi su Via D'Amelio potrebbe essere presentata presto dai magistrati di Caltanissetta, quelli che indagano sulla strage in cui morì il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. Gli elementi raccolti vanno infatti in direzioni diverse da quelle stabilite dalle sentenze già emesse. Siamo vicini alla verità, ha dichiarato il procuratore capo di Caltanissetta Sergio Lari. Di questi punti nuovi dell'inchiesta Lari aveva già parlato con Raffaella Calanda in questa intervista. Il problema non è soltanto quello di verificare, come sembra che sia, se Crespatuzza ha ragione, il problema è capire anche perché a quei tempi si è invece effettuata una ricostruzione che potrebbe risultare totalmente falsa. Ciò è avvenuto perché si voleva proteggere un terzo livello. Rispetto a quanto sta dichiarando Ciancimino e rispetto all'ipotesi che la strage di Via D'Amelio sia avvenuta prima perché lui sapeva di questa trattativa del famoso papello? È una delle possibili ricostruzioni di quelle vicende. Anche la scomparsa dell'agenda rossa potrebbe essere determinata dal fatto che in quell'agenda Paolo avrebbe potuto segnare qualche suo elemento di conoscenza in ordine all'esistenza di una trattativa. L'esistenza di questo possibile terzo livello di servizi segreti deviati è qualcosa di concreto, di tangibile. Qualcosa l'aveva accennato lo stesso Falcone in occasione del fallito attentato alla Daura. Elementi di questo tipo sono emersi nel corso delle indagini in più occasioni e tuttora emergono anche dalle dichiarazioni di Massimo Ciancimino. Un'altra indagine importante è quella sulla cosiddetta P3, cioè le deviazioni di una loggia massonica segreta. È intervenuto il vicepresidente del CSM Mancino quest'oggi al plenum, è tornato proprio sulla vicenda dell'inchiesta, è tornato a parlare delle indagini, ha detto che l'interferenza sulla libera attività del magistrato non è mai stata posta in discussione. Sentiamo Mancino. Gli ultimi avvenimenti gettano un'ombra che non credo però possa diciamo, incidere sulla sostanza delle attività che sono state svolte al Consiglio Superiore della Magistratura. Peraltro è stata aperta una indagine da parte della Prima Commissione, lo stesso Procuratore Generale avverte la necessità di avviare un accertamento, un'indagine di carattere disciplinare e naturalmente vediamo nel corso degli eventi che cosa succederà. P3 piena e attiva collaborazione con gli organi inquirenti da parte dei servizi segreti rispetto alle inchieste in corso. Lo ha assicurato poco fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi Gianni Letta nel corso di un'audizione davanti al COPASIR, dove sono stati affrontati tra gli altri coinvolgimenti del personale appartenente o l'ex appartenente ai servizi in alcune inchieste giudiziarie in corso. Il governo è stato battuto alla Camera due volte sulla proroga delle missioni militari all'estero per gli aggiornamenti. Cristina Ballotelli. Sì, per due volte l'Aula ha votato a favore di emendamenti del PD su cui l'esecutivo aveva espresso parere contrario. Entrambi gli emendamenti su cui il governo è andato sotto si riferiscono all'articolo 3 del decreto di proroga. Il primo firmatario, Mario Barbi del PD, esclude la natura regolamentare dei decreti per il coordinamento delle missioni. Il secondo, primo firmatario, Francesco Tempestini, specifica una competenza in capo ad una direzione generale del Ministero degli Esteri. Ricordiamo che le missioni oggetto del decreto sono Afghanistan, Libano, Kosovo e Haiti, ma la principale, come sapete, è l'Afghanistan. Il decreto conferma che per i prossimi sei mesi le spese necessarie al mantenimento della missione, che sono pari a 364 milioni di euro, con un aumento di 55 milioni rispetto alla cifra stanziata nel primo semestre dell'anno, aumento che si è reso necessario per la decisione presa dal governo di portare in Afghanistan altri 700 militari. Ti restituisco la linea. Bene, grazie Cristina. Ieri, lo sapete, si è conclusa a Kabul la conferenza internazionale che ha visto partecipare oltre 70 paesi, sono tutti detti impegnati in una transizione. Questa data fissata del 2014 per il ritiro delle truppe internazionali dall'Afghanistan. E proprio su questo sentiamo Lucio Caracciolo, direttore di Limes, intervistato da Cristina Ballotelli. Qualsiasi previsione che vada al di là della settimana in Afghanistan secondo me non ha molta base, si tratta evidentemente di un auspicio, di una volontà, ma di qui al 2014 può succedere di tutto. E quali saranno i passaggi fondamentali per cercare di mantenere questa promessa che ha tutto il sapore di essere una promessa politica? Sì, è legata questa promessa evidentemente più alle necessità di politica interna di Obama, che vuole togliere l'Afghanistan di mezzo dalla campagna elettorale per la sua rielezione, che non da un'analisi di terreno. Credo che comunque il punto decisivo sarà capire se si riesce a trovare una qualche forma di accordo con i Taliban e con gli altri insorti per stabilizzare o far finta di aver stabilizzato l'Afghanistan, e non mi pare che sia così facile. La Fiat si divide in due società, via libera lo spin-off dell'auto. I licenziamenti degli ultimi giorni di alcuni operai della Fiat dividono ancora una volta i sindacati, proprio nel giorno in cui il CDA del Lingotto approva la divisione in due della società. Nascerà Fiat Industrial, un'azienda in cui confluiranno i debiti e tutta la produzione dei veicoli agricoli e industriali. Sarà quotata a Piazza Affari e avrà un proprio management e una propria struttura societaria. E così si concretizza lo scorporo annunciato nei mesi scorsi dall'amministratore delegato Marchionne. Fiat si fa in due e separa da tutto il resto il settore auto, una scelta di chiarezza strategica e finanziaria, dicono dal gruppo. Il tutto avviene in un momento economico positivo, con un utile netto nel secondo trimestre di 113 milioni di euro contro una perdita di 179 milioni nel secondo trimestre dello scorso anno. Ma se oltreoceano, nel quartier generale di Chrysler, il CDA brinda, in Italia la CGIL tuona contro i licenziamenti degli ultimi giorni, l'ultimo dei quali a Termoli. Epifani attacca: è uno stillicidio di atti contro il buonsenso e contro ogni misura, dice il segretario CGIL. E si apre uno scontro, l'ennesimo, con la CISL. Bonanni invita i lavoratori a non cadere nella trappola della FIOM. Intanto interviene anche il ministro del welfare Sacconi. Da parte di Epifani dice c'è una lettura sbagliata dei fatti. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani vediamo come sta andando il titolo Fiat. Azioni ordinarie più 5,36% per Exor, azioni borsa di riferimento del lingotto più 2,90, quindi il mercato brinda. Le notizie che sono arrivate da oltreoceano sullo scorporo della divisione auto del gruppo Fiat, notizia che peraltro circolava da mesi tra la comunità finanziaria, è già stata preannunciata dall'amministratore delegato Sergio Marchionne. La formalizzazione di oggi viene accolta con questo plauso dal mercato in una giornata che è piuttosto positiva per gli indici del vecchio continente, tutti in rialzo di circa 1,5 punti. Milano più 1,35 sul FTSE MIB. Daniele. Grazie Deborah. 13:10:14. Vediamo al ministro dell'economia Tremonti e alla sua audizione commissario commissione bilancio della Camera sulla manovra in corso del 2010. Ha detto che non ce ne sarà un'altra e che non è previsto alcun blocco del turnover sulla sanità. C'è stato fatto uno sciopero perché c'era il blocco del turnover nel sanitario. A noi non risulta che ci sia il blocco del turnover nel settore sanitario. A me non risulta. Allora, se nel Parlamento della Repubblica Italiana non risulta un fatto che invece ha animato lo sciopero di un settore non grande, il personale medico, forse uno dovrebbe chiedersi allora qual era la ragione dello sciopero. Il Consiglio di amministrazione della RAI poco fa ha deciso di rinviare formalmente la questione nomine prevista all'ordine del giorno di oggi. Tra le ipotesi di cui si era parlato nei giorni scorsi era la sostituzione di Corradino Mineo alla direzione di RAI News. Ogni estate a Cortina si incontrano i più noti personaggi della politica, dell'economia, dello spettacolo, della cultura. Torna anche quest'anno dal 24 luglio al 29 agosto Cortina incontra l'ideatore Enrico Cisnetto. Ci saranno molti ministri, uomini di banca, uomini di impresa, economisti. Il tentativo che si fa a Cortina, complice l'aria fresca di Cortina, complice il fatto che sia in maniche di camicia, complice forse anche la bravura degli organizzatori, è quella proprio di uscire dagli schemi e fare in modo che queste discussioni siano costruttive, intanto in termini di diagnosi, perché se qualcuno ha un problema di salute, prima di tutto bisogna fare la diagnosi giusta. È difficile guarire dalla malattia se non si individua esattamente da che cosa si affetti, e poi trovare conseguentemente le medicine che servono. E pochi minuti fa ha battuto una notizia alle agenzie importante, dice l'Avvenire che la questione morale a Milano e Lombardia non è un piagnisteo e forse quella di averla aperta non sono soltanto quattro mele marce, c'è tutta un'economia del disastro, scrive oggi, poco fa, l'Avvenire, consegnata alle generazioni future il peggio immaginabile della diserzione morale. Così in un editoriale quotidiano dei Vescovi commenta il sequestro dell'area di Santa Giulia, le inchieste sulla contaminazione mafiosa, il rapporto sulle ecomafie di Legambiente, riferendosi anche indirettamente alle parole dette dal premier Silvio Berlusconi in Duomo. È tutto, l'Italia, il mondo, secondo Radio 24, quest'ora. Vi saluta Daniele Biacchessi, le prossime notizie alle 14. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.